G. Ascolta e indica la parola o le parole che senti. 1. Non hanno molta esperienza. 2. Scrisse un romanzo sui patti di non belligeranza. 3. Le entrate dell'abbazia sono sorvegliate dalla polizia. 4. È la storia di una lunga amicizia. 5. Lo zaino è un regalo di mio zio. 6. Da 20 anni perfeziona la pratica dell'ozio.